Italia in controluce. Quando la radio diventa cronaca e reportage, questa è Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 condotto da Daniele Biacchessi. Negli ultimi 2 anni si sono moltiplicate le operazioni di polizia giudiziaria contro il clan dei Casalesi, il gruppo camorristico vincente, quello che controlla il sistema degli appalti, del traffico di droga, usura e molte altre attività illegali. Ne racconto di Paolo Piccone, facciamo il punto, nella lotta alle cosche in Campania. Ammontano a 821 milioni di euro circa i beni sequestrati al clan casertano dei Casalesi dalla DIA di Napoli e supera i 2 miliardi e 600 milioni di euro invece la stima dei beni sottoposti a sequestro agli stessi clan della provincia di Caserta dalla nascita della sede della DIA di Napoli. Un vero e proprio impero finanziario della criminalità organizzata che però di anno in anno va assottigliandosi, come ci conferma il capocentro della DIA di Napoli, il vicequestore Maurizio Vallone. Gli ultimi 2 anni c'è stata effettivamente una forte accelerazione dovuta da un lato ad un forte stimolo che è venuto da parte del Ministro degli Interni, che ogni 2 mesi sta in provincia di Caserta chiedendo conto e ragione a tutte quante le forze di polizia che operano sul territorio e alla DIA di che cosa stanno facendo, quali sono le prospettive, quali sono gli ulteriori passi, cosa altro si può fare, perché in molti casi le nostre richieste sono tra tutte poi in formulazioni legislative. Azione di sequestri che ha subito da parte dello Stato e degli organi inquirenti un'accelerazione, soprattutto negli ultimi 2-3 anni. La camorrista mette in conto il fatto di poter essere arrestato e poter passare qualche periodo in carcere, tanto è tranquillo e sicuro che un'organizzazione penserà a lui e alla sua famiglia. Quando noi invece togliamo la possibilità alle organizzazioni camorriste di poter avere la disponibilità di soldi liquidi e di attività imprenditoriali da cui trarre profitti, gli togliamo la possibilità di pagare gli stipendi agli affiliati, gli togliamo la possibilità di pagare gli stipendi ai detenuti, di pagare gli avvocati a disposizione del clan e avere poi quelli che sono i mezzi per poter far sopravvivere un'organizzazione per acquisto di macchine, armi ed altro. La frangia più colpita del clan dei Casalesi da questa opera di sequestri è certamente quella che fa capo al boss Bidognetti. Una delle famiglie più forti da sempre e militarmente più forti dell'organizzazione dei Casalesi, nelle attuali indagini ci dimostrano sempre di più che l'organizzazione ormai praticamente ha la fame, non hanno più la possibilità di pagare gli stipendi, i detenuti si dissociano dall'organizzazione e diventano collaboratori di giustizia proprio perché l'organizzazione non è più in grado di pagare gli stipendi alle loro famiglie e quindi non hanno più quella remora come avveniva prima, che di fronte a un possibile pentimento andava qualcuno a casa e offriva 10-20 milioni della vecchia lire alla famiglia in cambio del silenzio del suo familiare. Spesso così avevano ottenuto che qualcuno recedesse dalla volontà di collaborare. Un potere finanziario così grande nelle mani dei camorristi che ha inciso per molti anni sull'economia del casertano. E dalla seconda metà degli anni 70, quando cominciò a strutturarsi la banda Bardellino, all'epoca chiamata appunto banda Bardellino, che i casalesi hanno nelle proprie mani l'intera economia del casertano. Quindi 30 anni di economia con un controllo totale sull'agricoltura, sull'edificabilità, avendo dalla loro parte una pubblica amministrazione che non faceva la pubblica amministrazione ma faceva soltanto gli interessi dei casalesi, e una politica che non esisteva e quando esisteva era spalleggiata, appoggiata e favorita dall'organizzazione dei casalesi, forze dell'ordine che non riuscivano a imporsi sul territorio ma spesso erano convulse con un'organizzazione, in quel periodo anche una magistratura che non è stata esente da critiche, come evidente da alcuni processi che hanno interessato alcuni magistrati anche di Santa Maria Capua Vetere. Questo basta far capire come l'organizzazione dei Casalesi fosse assolutamente considerata onnipotente. Fatale ai Casalesi sarebbe stata anche la popolarità che avrebbero ricevuto negli ultimi tempi i boss casertani e le loro malefatte in libri e film. E Maurizio Vallone indirettamente risponde anche all'affondo che non molto tempo fa fece il presidente del Consiglio Berlusconi contro chi in TV e in libreria affronta il tema della criminalità, sottolineando che la mafia italiana risulterebbe essere la sesta al mondo, ma è quella più conosciuta anche per i film e le fiction che ne hanno parlato, come la serie della Piovra e in generale la letteratura, ovvero Gomorra e tutto il resto. Oggi è cambiata la mentalità. Oggi chiunque in Italia, sa chi sono i casalesi, sanno che è un'organizzazione criminale che va combattuta. C'è una volontà da parte dei commercianti e degli imprenditori di non sottostare più a certi ricatti e a un certo modo di fare economia, sono in aumento notevolissimo le denunce per estorsione, cosa che fino a un paio di anni fa era un fatto assolutamente impensabile e inimmaginabile. C'è un'opinione pubblica che è sempre più sensibile su questo problema e quindi le forze dell'ordine, i magistrati, chiunque voglia fare qualcosa non si sente più solo nel combattere i casalesi, si sente invece più forte anche in virtù di una stampa e di pubblicazioni, film ed altro che hanno evidenziato questo stato di cose e hanno fatto nascere una coscienza civica sicuramente diversa. Italia in controluce. La seconda storia di Italia in controluce è ambientata a Roma. La racconta per noi Elisabetta Fiorito. L'ambulanza arriva, ma questa volta un'ambulanza un po' speciale. Quartiere residenziale di Roma Sud, Casa d'Ago, una struttura diretta da Maria Elena Villa che si occupa di recuperare i pazienti con handicap motori e psicologici in seguito allo stato di coma. L'ambulanza, anzi meglio l'odontoambulanza, si ferma qui. Si apre lo sportello e davanti a noi appare un perfetto studio dentistico su quattro ruote. Poltrona odontoiatrica, computer, apparecchio radiologico digitale, strumenti chirurgici, autoclave e aria condizionata. Sono solo tre in tutta la città, in tutta Roma, e sono gestite dalla SIMO, la società italiana Maxillo Odonto Stomatologica. Oggi per i pazienti di Casa d'Ago è il giorno dell'igiene dentale. A curarli Manolo Ramunno, 28 anni. Perfetto, arriviamo con la nostra ambulanza e abbiamo una prima fase che è quella dello screening, della visita in cui si vanno ad intercettare tutti i vari problemi che presentano il singolo paziente. Nella fase successiva si passa all'igiene dentale, quindi si ristabilisce quello che è la parte fisiologica della gengiva, e la terza fase è quella dell'intervento dell'odontoiatra che passa alle cure vere e proprie. Estrazioni. Sì, ma noi abbiamo messo anche gli impianti in odontoambulanza, abbiamo fatto le protesi, tutto quello che è il campo odontoiatrico l'abbiamo fatto tutto all'interno dell'ambulanza perché è attrezzata per fare tutto. Ma quindi fate Casa d'Ago e poi che fate? Andate in giro per altre strutture? Sì, noi ci occupiamo di tutti i ceti deboli e particolarmente vulnerabili, quindi passiamo dagli anziani ai disabili, case famiglia, anche i carceri, campi nomadi, tutta questa diciamo cerchia di persone. È difficile per sterilizzare, mantenere un ambiente. No, te lo faccio anche vedere, guarda, vieni con me. Allora, l'ambulanza, come ti dicevo, è dotata di tutta la strumentazione che è presente all'interno di uno studio, quindi la sterilizzatrice, il frigorifero, ci sono tutti strumentari monouso, il radiografico, di cui poi noi comunque abbiamo tre ambulanze, due che hanno l'RX endorale, quindi sono le lastrine quelle particolari, e mentre invece in un'una è montata proprio l'ortopantomografo. Un modo quindi per andare a domicilio a curare i pazienti che non possono andare dal dentista. È sempre più richiesto, tanto che venerdì scorso a Roma si è svolto un convegno dal titolo indicativo L'odontoambulanza verso i ceti deboli. La seconda edizione di Italia in controluce termina qui. Sul nostro sito radio24.it trovate tutte le nostre puntate andate in onda dalla 18 di gennaio. Ringraziamo naturalmente tutte le persone che collaborano e che continuano a costruire con noi nel lavoro quotidiano il reportage di Controluce, a Peter Bescapè per la regia continua e puntuale. L'archivio delle puntate è dunque sul nostro sito e anche il gruppo su Facebook che è andato crescendo di giorno in giorno. Ora siamo intorno alle 1500 utenze, che sono molte. Radio 24 Italia in controluce. La mail controluce@radio24.it. Domani sentirete la mia voce alle 6:30.